Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 6. Lezione 5. La scelta del tuo ambiente è solo tua. È l'unica scelta che l'uomo ha. Quindi, impara a scegliere il tuo ambiente. C'è un detto: tu sei quello che mangi, ma è lo stesso con il tuo ambiente. Sei quello che il tuo ambiente è. Quindi non essere schiavo del tuo ambiente. Può essere È possibile che tu devi cambiare completamente il tuo ambiente. Non esitare a fare la tua scelta. Ricorda che tutto è collegato con il nome del Creatore, con le quattro lettere nome Havaya. Qui vediamo che il numero è molto significato. In questo vediamo quattro diversi livelli, quattro diverse differenze nell'uomo. Ci sono anche quattro diversi tipi di gruppi dell'essere umano. Le persone prima, le persone, uno, le persone che come te si sforzano per lo stesso obiettivo, per venire alla loro realizzazione personale. Secondo, le persone che ti sostengono. Tre. Terzo, le persone che non sono interessate a ciò che fai. E quattro, quelli che sono scettici. Crea l'ambiente in cui vuoi vivere. Circondati di quelle persone che sono proprio come te, sei impegnato per la vera realizzazione spirituale. Questo è il gruppo che deve essere il più importante per te. Ma attenzione, non stiamo parlando di una setta o qualcosa del genere. Tutti noi siamo indipendenti, individualisti. Ciò che abbiamo in comune è la profonda delusione. Ognuno di noi era arrivato al punto in cui aveva detto è abbastanza. Non c'è realizzazione nel materiale molto a lungo. Quindi ora stiamo cercando qualcos'altro e attraverso questa ricerca possiamo venire al Creatore. All'inizio ci deve essere la delusione più profonda. Il mondo non può impressionarci molto a lungo. Questo è il momento in cui possiamo aprire il nostro cuore per l'unica e sola ricerca, il Creatore. Quando non c'è nessuna via d'uscita, le finestre nel nostro cuore si apriranno. Quindi, il salvataggio è vicino. Ora la luce può risplendere attraverso le finestre e questo dà speranza e la certezza che sei sul giusto percorso, il tuo percorso individuale. Quando c'è qualcuno che ti insegna una lettera ebraica, grazie a lui. Vedilo come un maestro. Questo ti aiuterà enormemente nel tuo studio. L'aspetto del ricevente ora sarà accompagnato con il dare. Nessun altro può purificare il tuo ambiente. Devi fare questo da te stesso. E questo è necessario per migliorare la qualità. Così ora puoi venire alla realizzazione. Il secondo gruppo sono le persone che ti supportano. Sono entusiasti di vedere come ti stai sviluppando nella tua spirituale, nella via spirituale. Corretto. Questo dà loro anche l'opportunità di mantenere loro stessi impegnati con lo spirituale e ora possono far crescere anche il punto nel loro cuore. Il terzo gruppo sono le persone che sono indifferenti considerando il tuo studio. Non hanno un'opinione e non ti ostacolano nel tuo percorso. Ma il quarto gruppo, quelli che sono cinici, evita queste persone. Se tu sei con loro, ti porteranno con loro nell'altro lato. Quindi, evita loro, vieni a imparare a distinguere tra questi quattro gruppi differenti di persone. Stando attento al tuo studio, andrai molto veloce. Ma c'è un'altra cosa, c'è un detto, ed è ama il tuo vicino. Come possiamo trascurare allora uno cinico? Che cinico appartiene anche al tuo vicino. È facile per noi. Chi fa parte nei primi tre gruppi, ma colui che è cinico è per di più nel mondo spirituale è tutto o niente. Siamo tutti discendenti di Adamo, che fu il primo uomo. Quando Adamo peccò, ci fu la caduta da uomo. Questo non è ciò che pensavamo esso fosse. Il corpo spirituale di Adamo si ruppe e si divise in molte anime. Alla fine stiamo tutti parte di uno e stessa sorgente. Uno è una parte del corpo spirituale di Keter, un'altra è parte di Chesed, eccetera. Possiamo essere una parte delle sue spalle, la sua gola, dei suoi piedi, ma siamo tutti parte di Adam. Dove senti il dolore? Nel tuo cuore? Dove senti il dolore? Nel tuo cuore, nella tua testa. Esso significa solo tutte le forze dentro di me. Tutti i desideri non corretti in me fanno male. E l'aiuto che devo cercare sta accanto ai desideri che ho già corretto. Questo è il posto dove devo chiedere aiuto. Questo è il primo passo e posso in seguito andare all'esterno. Ma prima devo imparare lo spirituale, l'insegnamento del Creatore. Si dice che dobbiamo amare e questo è anche voler dire per coloro che sono cinici. Ma loro non sono con chi noi iniziamo. Primo amate loro che hanno proprio come voi gli stessi desideri, ma è solo un inizio, è solo temporaneamente. Ma io devo iniziare con il primo gruppo. Perché non ho abbastanza forza. E quando io comincio con il primo gruppo, io costruisco la mia forza. È anche facile per un'altra persona distrarmi, mandarmi nella via sbagliata, perché la mia forza non è sufficiente. Quindi io devo iniziare con il primo gruppo. Ma più tardi, quando la mia forza è cresciuta, posso estendere questo amore a loro che sono cinici, perché ora tu sai che ogni cosa è intero, perfetto, anche loro che sono cinici. La differenza è che loro non sanno questo. Io so che lui è ignorante, ma agli occhi del Creatore lui è perfetto come sono io. Perciò, quando sei diventato un livello più alto, è facile amare anche lui che è cinico. Ma questo è possibile solo quando hai corretto te stesso. Se no, è un peccato. Come per lungo tempo tu sei stato incorretto, tu non sei nella situazione per dare. È un regalo dall'alto. Quando tu puoi amare il nemico, ma questo regalo ti sarà dato a te solo quando avrai guarito il tuo essere interiore. Prima devi imparare ad amare te stesso, solo allora puoi amare altri. Il nostro essere interiore è una persona molto saggia. Quindi ama il tuo interiore. Non iniziare con il quarto gruppo. Quando il tempo è pronto, puoi lavorare anche a questo livello. Prima tu devi costruire la tua forza. Cosa vuol dire amare qualcuno? Significa solo che non odi lui. E lo sforzo deve essere fatto ora. Quanto tempo ci vuole, non è importante. Iniziare passo passo lentamente. Non reagire in modo eccessivo, prima dai al tuo essere interiore. Il Creatore ha avuto, ha e si prenderà cura del suo insegnamento ed esisterà per sempre. Sempre ci saranno anime che si sforzano per il suo compimento. Che tipo di anima sei? Da quale parte del corpo di Adam sei tu? Ci sono anche anime per cui è proibito? Proibito fare questo lavoro? Ognuno di noi deve conoscere la sua anima. Non conosci la tua anima? Abbi pazienza e non combattere. Non combattere. Quando c'è la sensazione di soffrire, devi soffrire. Quando scappi lontano, tu fuggi dalla tua vita. La conseguenza non è importante. Tutto quello che stai facendo è per il tuo essere interiore. Non può essere fatto senza la sensazione di sofferenza. Quando siamo giovani, noi abbiamo piacere, ma dopo noi vediamo l'altro lato della vita, sofferenza. Noi dobbiamo conoscere entrambi. Quando noi saliamo sul nostro percorso, noi incontriamo diversi punti di forza. Questo è un tema strutturale e ancora dobbiamo lottare con queste forze, altrimenti come possiamo andare più avanti? Questi punti di forza sono là per tirare su la nostra anima. E questo tirare su dell'anima può dare una sensazione di dolore, di sofferenza, un dolore interiore. Oppure è un dolore esteriore? Non importa, lo permetti, è il tuo salvagente. Il solo problema è che noi non capiamo ancora la nostra anima. Ci sarà un momento che hai la certezza, un sentimento, qualcosa che non puoi descrivere. Quello è il momento in cui conoscerai la tua più grande correzione. Molte correzioni si avranno, ma solo una correzione è speciale. Essa è una correzione molto importante, ma per ora tu non conosci questa correzione. Sei tu che devi purificare te stesso. Impara ad accettare. Accetta tutto ciò che arriva sulla tua strada fino al momento che tu riconosci la tua correzione principale. La sofferenza è un meccanismo tremendo. Non fuggire per essa. Se lo fai, non crescerai. Prima noi viviamo in questo mondo. Il secondo mondo è il mondo di Asya. I mondi sono specifici punti di forza dentro un essere. Esso è uno strato della tua coscienza, un'osservanza. Tutte le strutture dei punti di forza provengono dal Creatore. Quando l'uomo sente più male, è poi buono. Lui sente le potenze del mondo Asiya. So, Asiya è in ebraico. Non Asiya, ma Asiya. Ognuno di noi deve andare attraverso questo strato. Tu non puoi scappare. Ognuno di noi deve attraversare questo mondo di Asiya. È la tua anima, quella che deve passare attraverso quello che noi sperimentiamo nel mondo Asiya è per il 90% cattivo e per il 10% buono. Tutto all'inizio è difficile, ma tu devi trasformare questo male per venire nel secondo strato del bene. Il secondo strato è il mondo di Yetzirah. In questo mondo puoi sperimentare la struttura del 50% buono contro il 50% cattivo. È più facile da attraversare. Esso è l'apprendimento di accettazione, accettare dal tuo profondo ogni cosa che sta avvenendo sulla tua strada. Dall'interno devo fare me stesso piccolo, umile, per la forza interna, per la forza del Creatore. Quando trascuriamo questa lezione, soffrire sarà la nostra parte. Soffriremo perché siamo amati dall'alto. Quando abbiamo messo in equilibrio il bene e il male, noi veniamo nel terzo mondo, il mondo di Bria. Se forze nel mondo di Briah sono quasi buone, le forze nel mondo di Briah sono quasi buone. Solo il 10% è male. Nel nostro sperimentare. È la stessa realtà. Quello che è cambiato sono le tue osservanze, la tua consapevolezza. È il quarto mondo, il mondo di Azilut, è assolutamente buono. E questo mondo Azilut sarà corretto. E questo mondo sarà corretto come l'ultimo, e questo accadrà quando arriverà il Messia, la Mashiach nell'ebraico. Fai le cose che puoi fare. Come si sentono tutte queste correzioni? Ricorda, senza sofferenza, non raggiungerai un secondo mondo. È impossibile raggiungere un nuovo mondo senza sofferenza. Abbiamo bisogno della sofferenza per venire alla trasformazione, per venire al reale benessere. E essa è te che deve trasformare. Possiamo trovare tutto in paradiso, eccetto il tuo rispetto, il tuo atteggiamento e la tua preparazione per fare te stesso piccolo. La sua umiltà è sollevarti. Quando tu pensi di poterti innalzare, sarai umiliato. E non da un essere umano, ma dal Creatore stesso. Perciò sii consapevole del tuo proprio atteggiamento. Qual è il tuo atteggiamento? Ovviamente, il gioco che l'umanità sta giocando è un gioco facile. Tutte le religioni, tutti gli insegnamenti stanno giocando un gioco facile con noi. Non nella Kabbalah. Non ho tempo per giocare. È impossibile per noi amare il prossimo. Quello che stiamo facendo è dal nostro istinto. Noi abbiamo bisogno per sopravvivere, ma non è vero amore. Dobbiamo imparare cos'è il vero amore. È questo. Non è possibile giocando a un gioco, ma solo lavorando solo su te stesso. Cosa intendo con giocando? Tenersi impegnato a mangiare e bere, a cantare una canzone, eccetera, eccetera. E di certo sulla via di questo sistema tu arriverai alla fine. Ma io voglio il meglio per tutti voi. Egli ci sta mostrando una via più breve, una via con meno sofferenza. Più accetti la sofferenza, più velocemente essa passa. Quando tu giochi, scorre liscio, ma non è la strada breve. Ti porterò in una via diretta. Mi piace insegnarvi in modo puro, non con un mix di diversi giochi. Colui che sta imparando la Kabbalah e vive e lavora in accordo con le sue regole del Creatore, con le sue regole, andrà molto velocemente, anche senza imparare la lingua ebraica. È bello imparare la lingua ebraica, ma non è necessario nel primo tempo. Quello che faccio è farti la doccia, perché per svegliarti al tuo essere interno. Questo è il giusto momento per afferrarlo. Non c'è nulla di sbagliato nella sofferenza, ma d'altra parte non cercare la sofferenza, è solo il tuo salvagente. Quando combatti contro la tua sofferenza, tu fai pressione sul tuo sistema. Il nostro sistema può rigenerarsi completamente con la via spirituale. In un modo Lo spirituale può guarire ogni malattia, ma per lo più siamo in ritardo con la nostra correzione. Quindi, da ora in poi, non scappare. Impara come diventare una persona indipendente per mezzo della tua spiritualità. Mantenersi impegnato con i quattro comandamenti manterrà il tuo corpo più puro possibile. Rimani fedele a te stesso, resta chi sei. Autenticità significa fedele a te stesso. Quando lo fai, tutte le risposte verranno a te in questo momento. Tu non sei consapevole delle cose che devono essere corrette, ma può essere quando la notte scende, che tu puoi vedere cosa ha bisogno di correzione. Tutte le correzioni che fai sono buone, ma tutte esse trattano di una correzione speciale, perciò sei qui. Questa è la domanda che devi fare. Chiedere questa correzione speciale, la correzione più importante per te durante questa vita qui sulla terra. Guarda la tua debolezza. Abbi il desiderio di questa correzione speciale. Allora vedrai cosa ha bisogno di correzione. Questo è il tuo lavoro. Questo è il modo per venire alla realizzazione. A essere onesto e vedere la verità in te stesso ti porterà alla realizzazione. Ricorda questo e, a proposito di te, questo lavoro può essere fatto solo da te. Perciò sei qui in questo mondo. Quando questa correzione speciale ti sarà data e inizierai con essa a lavorarci, più tardi riceverai qualcosa di più, la purezza. Verrai alla purezza. Ci sarà un'attrazione delle stesse anime e ti aiuteranno. Con la tua correzione verrai alla purezza. Anime di grande giustizia, parti di anime verranno a te, perché ti sei purificato da te stesso in tal modo. Ora sei pronto per ricevere di più e di più. Ti aiuteranno perché possono vedere la tua purezza. Colui che è più alto ha l'obbligo di aiutare chi è più basso. Puoi confrontare questo con un grande organo. Più purifichi te stesso, più anime dall'alto verranno per aiutarti perché tu hai purificato sempre di più te stesso, fino a quando rimarrete puri, loro rimarranno e vi aiuteranno. Perciò sii sempre vigile, sii positivo. Giustifica il governo del creatore, altrimenti esse scompariranno. La purezza è così importante. Più ti purifichi, più attirerai dall'alto punti di forza e ti aiuteranno ulteriormente. Ma appena inizi a dilungarti, esse ti lasciano. Qualunque sia il problema, vedilo e guardalo. Sii sempre umile considerando l'alto. E questo è molto difficile perché la nostra natura è il nostro ego. È il tuo ego che ti dice di farlo a modo tuo e sembra poco naturale. Ma il Creatore vuole che noi andiamo sopra l'ego. Dobbiamo andare sopra il nostro ego, altrimenti come possiamo entrare in contatto con il Creatore? Finché rimaniamo dietro al nostro ego, resteremo nel mondo di Asiya, Briya. E nel terzo mondo di Yetzirah. Più corretto è Asiya, Yetzirah e Briya. E le nostre qualità non corrispondono a lui, al Creatore. Atzilut è il figlio del Creatore. Qui noi vediamo i più alti punti di forza. E tutti possono venire a questo livello perché anche la tua anima viene da Adam. Non importa quale sia il livello della tua anima. È dall'alto la domanda per rendere integra la tua anima e rimetterla nell'anima errante di Adam. Lascia che ti dica di più, lascia che ti dica di più sui quattro comandamenti che il Creatore ha fatto con ogni essere umano. Chi era il primo uomo? Adam è il primo uomo spirituale. Ma cos'è un uomo? Lui e lei è un uomo. È nato per essere un uomo quando egli riconosce il Creatore. Adamo. Adamo. È nato per essere un uomo quando egli riconosce il Creatore. Adamo era il primo uomo a riconoscere il Creatore. E non il primo uomo naturale. Allora possiamo parlare sulla nascita dell'uomo. Come in caso del Adam, quando tu riconosci il Creatore, allora possiamo parlare sulla nascita dell'uomo in te. Tutte le persone in tutto il mondo, belli o più potenti che siano, non possiamo ancora chiamarli uomini. La definizione di uomo è lui o lei che è nella condizione di accettare il Creatore. Ma non nella storia. Non è sufficiente di accettare il Creatore nella religione. Questo è l'inizio dell'uomo. L'anima dura per sempre è tutto riguardo il riconoscimento. L'uomo nella scena riconosce il suo opposto nella sua esistenza. E questo è iniziato con Adam. La Torah parla solo del momento della nascita dell'uomo. La scienza parla del materiale, essere terreno e l'essere esterno. Ma noi stiamo parlando dell'essere spirituale. Dopo la caduta di Adam, egli si vergognò. Si nascose perché per la prima volta lui provava vergogna. Non pensare che Adam sia stato la prima creatura vivente, ma tutti gli esseri vivevano anche prima che Adam non provasse vergogna. In un certo modo tutte quelle persone in cui vivono come animali, erano pieni di desiderio e di desideri animali. Non c'era assolutamente vergogna. Adam si vergognò, così ora voleva nascondersi. Indossava una piccola foglia, questo era l'inizio del vero essere. L'uomo più alto sale la scala spirituale. Tanto più egli sperimenterà la vergogna. Perché ora vede le sue azioni non corrette in confronto all'interezza del Creatore. Quando tu puoi fare questo, hai raggiunto un livello molto alto nel tuo sviluppo. Il desiderio per lo sviluppo spirituale crescerà giorno dopo giorno. Il tuo amore per il Creatore crescerà lentamente ma costantemente. Quando il Creatore ha creato l'uomo, egli fece un legame con loro. I quattro comandamenti. Le prime persone non avevano sentito questo legame. Anche ora alcuni sono inconsapevoli di questo legame. Ma stiamo cominciando ad avvicinarci al Creatore. E in questo avvicinarsi verremo al ricordo dei quattro comandamenti. I comandamenti degli occhi, la lingua, il cuore e l'area degli organi sessuali. Ma come abbiamo detto prima, è tutto dentro di noi. Attraverso questo noi verremo all'esperienza e le cose che non sono in accordo sono nel mondo esterno. Noi verremo all'esperienza e all'osservazione dei punti di forza, ciò che si trova all'interno delle sfirot. Questo è l'uomo alto nell'universo. L'uomo inferiore è qui. Tutto deve essere in accordo con la qualità. La persona elevata è dentro la luce, e questo è l'anima, ed è chiamato Kelim. L'uomo inferiore è chiamato corpo, ed è nel nostro mondo, Yesod. Il quarto comandamento è molto pesante. Iniziamo il nostro lavoro con il primo comandamento. Il comandamento degli occhi lentamente scendiamo verso il basso, ma più in basso arriviamo, più pesante diventa. Nessuno sa riconoscere Yesod. Perché? Perché non è dato all'uomo. Ed egli non ha gli strumenti come imparare Yesod. Attraverso la Kabbalah otteniamo l'accesso alla forza di Yesod. I punti di forza che abbiamo sviluppato all'interno di noi stessi. Ognuno deve impiegarle al suo sviluppo, o qui a Yesod. Non si tratta di controllare questi punti di forza. Non è la questione di essere un monaco o di vivere celibe. La gente che pensa di non essere controllata da questi punti di forza, loro li evitano ed è impossibile evitare questi punti di forza. Questa è una forza molto, molto forte. Nessuno può evitarla. La masturbazione non è una correzione. Al contrario, più ti cedi e più ascolti questo organo. E più Yesod vuole avere. Per le donne, se sono a conoscenza di questo, loro possono fare molto di più dell'uomo. Per l'uomo questo è molto difficile. Tutti stanno giocando a questo gioco, ma per lui, lei che vuole vivere secondo questo legame, deve smettere di giocare. Tieniti occupato con questi quattro legami, attaccati a loro in tutte le cose che pensi di fare. Non ti costerà tempo. Quando lo fai, inizierai a sentire. E molto tu sentirai, avrai la sensazione della reale vittoria. Arriverai alla reale prosperità e la seduzione sarà sparita. Gli occhi appartengono al Chokmah. Guarda attentamente con i tuoi occhi, non con l'occhio cattivo. Negli occhi abbiamo il maschio e la femmina. Guardare accuratamente conta anche per l'uomo come per la donna. Qual è il significato di non guardare con gli occhi cattivi? Non essere geloso. Non invidiare un'altra persona. Devi lavorare a te stesso. Chiedi al Creatore che possa aiutarti. Questo è riguardo il lavoro su te stesso. Qual è il significato di dare? Chi è quello che dà? Non puoi dare una cosa. Di certo, per il mondo esterno sei antisociale. Ma non stiamo parlando di questo mondo. Tu non puoi dare. Tutto il dare che fai è un gioco, una commedia. Chiedi al Creatore, lavora a te stesso. Non si tratta di te, ma del legame. Non parlare con la lingua malvagia, ma non solo il nostro parlare è importante. Anche le parole che non pronunciamo sono importanti. L'apprendimento della spirituale ti porta al bene. Sii onesto con te stesso e sii positivo. Non maledire o maledicendo un'altra persona o umiliarlo. Qualunque cosa accada, resta positivo. Impara a distinguere tra il bene e il male. La lingua appartiene alla Malchut di Binah. Ogni sfera ha in sé 10 sferot, e questa è la Malchut di Binah. Con il cuore raggiungiamo il centro epico del Tiferet. Tiferet è la parte superiore del corpo. Keter è il cranio. E nel cranio sono Chochmah e Binah. Tutta la luce che riceviamo, la luce che ci dà la vita, esce dalla testa e scende al di sotto. Sta a noi portare la luce al di sotto. Non è nostra intenzione mantenere la luce nella nostra testa. Se lo fai, avrai un mal di testa. La luce deve essere portata all'inferiore. Quindi, ora puoi godere realmente. Tiferet è il corpo. Due mani. La mano destra è Chesed e la mano sinistra è Gvurah. Lo stesso torso è Tiferet fino alla fine della pancia. Questo è l'ultimo posto in cui la luce deve entrare. È impossibile arrivare alla comprensione della Kabbalah con la tua testa. Tu devi venire al Tiferet perché Tiferet è la sensazione. Dà la sensazione. Tiferet è una sensazione chiara. Il comandamento del cuore è connesso con i sentimenti di odio e amore. Odio e amore sono di fronte. È il Creatore che ha fatto gli opposti. La luce deve venire dentro. Essa deve fluire in tutti i luoghi interiori prima che tu puoi arrivare alla realizzazione. L'amore deve fluire. Dov'è amore? L'odio non c'è. Chiedi al Creatore di aiutarti. La tua preghiera deve essere focalizzata al Creatore. La preghiera dall'interno è tutto ciò che conta. Questo è il tuo lavoro. Lavora alle tue correzioni. Rendersi piccoli è già una correzione. Ma con cosa intendiamo con rendi te stesso piccolo? È l'apprendimento della preghiera dal tuo essere interiore. Devi fare solo te stesso piccolo considerando il superiore. Chiedi per l'amore, sappi che tutto il bene è opposto al cattivo. Il quarto comandamento è il legame con Yesod e lui ha tutto a che fare con gli organi sessuali. I greci non avevano capito gli ebrei. La circoncisione di Avram non riguardava la carne. Il legame di questo luogo intimo è il luogo del desiderio bramoso. Ma solo una relazione è importante, la relazione con il Creatore. Non puoi imbrogliare Yesod, pensi. Mentre guardi un film porno, questo non può far male, ma lo pensi perché tu non conosci il tuo Yesod. Attenzione, mentre stai guardando il film porno, stai perdendo il tuo contatto con il Creatore. Non pensare che ti proibisco di guardare la televisione o fare sesso con un compagno, ma quello che dico a te è: stai con un partner. Un solo partner. È abbastanza. Non pensare che è un peccato se si fa diversamente, ma il fatto è che stai perdendo tempo. Non otterrai nulla, sarai solo gettato indietro. Ti distrarrà dalla retta via. Il percorso diretto al Creatore. Ma tieni a mente che anche questo è buono. Sei tu stesso a rendere più lungo il tuo percorso. La Kabbalah è lì per aiutarti ad accorciare la tua strada, a lavorare sempre di più con te stesso. I quattro comandamenti servono solo per avvicinarti al Creatore. È molto difficile ubbidire a Yesod. Siamo creati con il dualismo, perché è la nostra natura. Il prossimo passo è il vero studio di te stesso, non della massa. Riguarda il tuo sviluppo. È te che devi venire all'esperienza. Sei tu che devi sentire cosa sta succedendo. E con la via della Kabbalah puoi arrivare alla pienezza. E questa totalità scollega il dualismo. Come puoi vedere il bene? Cercando il Creatore, chiedi a Lui l'aiuto, stabilendo un contatto con questi quattro organi, non con uno di loro, ma con tutti e quattro, si arriva a vedere il bene. Il nome del Creatore è composto da quattro lettere. Yud, Hei, Vav, Hei. Gli occhi appartengono a Yud, la prima lettera del nome di quattro lettere, ed è collegato con il primo legame, con gli occhi, Chokhmah. La lingua appartiene al primo Hei. Del nome di quattro lettere. Questa lettera ha tutto a che fare con l'esperienza e la sensazione e appartiene alla Malchut di Binah. Il cuore appartiene alla lettera Vav. E qui abbiamo l'esperienza di Tiferet. la quarta lettera, l'ultima hei, appartiene a Esod. E quando ti sei connesso in te stesso a questa ultima hei, arrivi all'esperienza del Creatore. Questa è una breve introduzione del legame del nome di quattro lettere. È un nome molto importante. In questo vediamo tutti i punti di forza che sono in ogni essere umano. Vivi il legame, pronuncia queste lettere, riceverai un'enorme forza. Senza il legame sono senza valore. Puoi chiedere aiuto al Creatore, ma lui non ti conosce. Devi collegare il tuo appello ai quattro legami del Creatore, così ora lui può e ti aiuterà. Insieme con l'osservanza del legame, puoi chiedere aiuto al Creatore per la forza e lui ti aiuterà. Solo allora puoi venire alla realizzazione. Pronuncia il suo nome. I miracoli avverranno assolutamente senza dubbio. Ma devi vivere secondo questi quattro comandamenti. Tutte le correzioni provengono da Malchut. Il Malchut deve salire. Deve salire a Yesod. Quindi Ahod ed Ahod a Netzach. Attraverso le tue correzioni, Malchut sale. Cosa è Malchut? Tutti i tuoi desideri egoistici provengono da Malchut. Sembra strano, ma lui che aveva peccato molto riceverà molti punti di forza per venire alla realizzazione. Perché? Perché questa persona deve lavorare molto duramente e quindi accumula più punti di forza. Questo è il desiderio e il piano del Creatore stesso. C'è un detto: colui che viene a purificare se stesso sarà aiutato. Per questo si avvicina al Creatore, e avvicinarsi al Creatore significa avvicinarsi al adempimento. Pensa ai quattro comandamenti. Vivi secondo questi quattro comandamenti e trasformali. Ogni giorno, ogni notte e nei secoli dei secoli.